Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Siamo a venerdì 14 gennaio, benvenuti e bentornati di nuovo a tutti i nostri teleradioascoltatori su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città e che, come di consueto anche oggi, che è venerdì per l'appunto, va in onda sulle nostre frequenze che sono Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Io sono sempre Caterina Bombarda, qui con voi per mezz'ora alla conduzione di questo programma e dopo di me ci sarà Antonella Cortese con sempre le notizie di carattere nazionale e internazionale. Ma partiamo subito con le notizie a tema carceri. Leggo la notizia di oggi da retisolidali.it, a firma di Maurizio Ermisino, e il titolo è Roma, carcere di Regina Coeli, la realtà virtuale per evadere. Beh, si sa, no, che il concetto di evasione per chi è fuori e quando riguarda le carceri non richiama sempre concetti positivi, ma l'evasione può voler dire anche scappare con la mente, per esempio, soprattutto per chi si trova in una situazione di reclusione e anche soprattutto di solitudine. E così eVision è il progetto che l'associazione Semi di Libertà sta sperimentando al carcere Regina Coeli di Roma per il benessere e la formazione dei detenuti. Si tratta in pratica di sperimentare l'utilizzo della realtà virtuale per far evadere i detenuti con la mente da una realtà non virtuale come le celle e le sbarre a una realtà virtuale di allenamento fisico. E questo progetto si chiama eVision ed è stato realizzato insieme a una startup romana che si chiama Kiron Interactive. Grazie a questa idea i detenuti faranno attività fisica in un contesto di gamification, ovvero di gioco, di attività fisica che diventa un gioco virtuale, grazie a un software realizzato per l'appunto dalla startup Kiron. eVision parte da molto lontano in realtà come progetto, perché non è nata per il carcere, ebbene sì, pensate che il progetto è stato pensato nel 2019 come startup che lavorava con le palestre e spiega uno dei progettisti che tutti sappiamo quanto l'attività fisica ci porti benessere e tutti ci iscriviamo magari in palestra, i primi 3 mesi siamo assidui, andiamo sempre, poi la volontà cala e non si va più in palestra. E quindi gli ideatori di questo progetto hanno pensato di fare un esperimento di gamification, quindi di realtà virtuale con il gioco, in cui l'attività fisica diventasse per l'appunto un divertimento. E così eVision è diventata un esperimento nell'istituto penitenziario di Benevento per fare dei test sulla comunità reclusa e il riscontro è stato positivissimo, tanto che è stato donato all'istituto nella sezione femminile del carcere. Il vantaggio di questo strumento per una persona che vive una vita normale è la possibilità di motivarsi, ma per una persona che vive una vita in reclusione, un periodo chiaramente in reclusione, diventa un'occasione di evasione mentale, quindi è ancora più importante. C'è poi tutta una serie di considerazioni sull'utilizzo di questo strumento in era Covid, che come sa chiunque è ristretto in questo momento molto meglio di chi è fuori. Il Covid ha inferto ferite dolorosissime nei penitenziari italiani, a partire dalla chiusura col mondo esterno, alla sospensione di tutte le attività trattamentali, i colloqui, la ricezione anche, per dire, dei pacchi postali, quindi ha acuito la separazione tra mondo esterno e interno, e quindi eVision può chiaramente ovviare a eventuali altri isolamenti che potrebbero tornare a esistere. Una volta che i detenuti si sono allenati e sono stati anche istruiti all'utilizzo dell'applicazione, possono usarla senza altro ausilio da parte degli operatori esterni, quindi questo consentirebbe un minore, diciamo, spreco di risorse. Ma è un discorso che va contestualizzato anche in un orizzonte più ampio, che è quello della digitalizzazione, che fuori all'esterno corre velocissima, mentre all'interno degli istituti non è presente. Quindi in qualche modo far familiarizzare i detenuti con le nuove tecnologie è fondamentale. E infine eVision serve per l'allenamento fisico, ma anche per la formazione. Si tratta di 5 allenamenti, pensate, per fare massa fisica, tra cui lo scatto, i piegamenti sulle gambe, e chiaramente induce un effetto indiretto di benessere psicofisico non solo per chi pratica attività sportiva, ma anche per gli operatori, il personale che ivi lavora, perché crea un ambiente più sereno nel momento in cui le persone sono più impegnate a fare altro. La cosa bella è che dopo la sperimentazione al Regina Coeli di Roma ne è partita un'altra presso l'Istituto Penale Minorile di Casal del Marmo, e quindi si sta forse gettando un piccolo seme per farne un modello per tutti i penitenziari, dato che anche il Dipartimento di Psicologia di Roma si è messo a disposizione per eseguire una serie di test sulle persone detenute. Speriamo che questa idea vada avanti, e con questo vi lascio con un'altra canzone, l'ultima playlist di oggi, i Green Day, When I Come Around, e ci rivediamo tra pochissimo con Antonella. Grazie Caterina. E, oggi avevo pensato di parlarvi di un blog che seguo, ed è il blog di Nicoletta Cinotti, che ho conosciuto quando ho cominciato ad interessarmi di meditazione, mindfulness, insomma un po' tutte quelle pratiche che portano l'attenzione all'interno, un po' per cercare, diciamo, un equilibrio, un po' un senso a quello allo stare al mondo. Che poi non è niente di strano, lo facciamo un po' tutti, no? E perché siamo un po' tutti dei funamboli in certi momenti e cerchiamo un centro di gravità, se non proprio permanente, come cantava il nostro Battiato, almeno temporaneo. E, ho trovato quindi questa interessante riflessione sul tempo e sull'umore, e che vi voglio leggere. E voglio precisare che Nicoletta Cinotti è psicologa e pedagogista, oltre ad essere istruttrice di protocolli mindfulness, ed è anche scrittrice, e ha questo blog che popola quotidianamente con una newsletter molto bella. E, Nicoletta dice che il tempo è un'ottima metafora per spiegare come funziona l'umore, Intanto definiamo che cos'è l'umore. L'umore è uno stato emotivo di base caratterizzato dal tono emotivo delle emozioni che abbiamo provato più frequentemente nelle ultime 2 settimane. Se in questo periodo abbiamo provato tristezza, il nostro umore sarà basso. Se abbiamo provato felicità, il nostro umore sarà alto. L'umore è importante perché, come una calamita, attrae ricordi ed emozioni congruenti con quell'umore. E quindi, se l'umore è basso, avremo ricordi che confermano le buone ragioni per avere un umore basso, e se un umore alto, invece, avremo buone ragioni per ricordare tanti momenti belli della nostra vita. A questo va aggiunto anche che per alcune persone l'umore è particolarmente instabile e in pochi momenti può passare dall'essere molto alto all'essere molto basso, e questa instabilità diventa un problema relazionale perché a nessuno piace troppa imprevedibilità. Insomma, siamo abituati a parlare di emozioni, ma forse sarebbe abbastanza importante iniziare anche ad essere consapevoli di come funziona il nostro umore, perché un umore basso fa rimanere appiccicate alle difficoltà, come se avessero il velcro, mentre quelle stesse difficoltà, quando siamo di umore buono, scivolano via molto velocemente. E questo lo sappiamo bene tutti noi, e sappiamo che funziona esattamente così, purtroppo. L'altro regalo che ci fa il nostro umore è la memoria generalizzata. Una memoria che è distorta e ci fa credere, soprattutto quando l'umore è basso, che la nostra vita ormai è rovinata e niente di buono può succedere. Quante volte ci troviamo in situazioni sgradevoli e pensiamo di non riuscire più ad uscirne fuori? Quante volte stiamo male, soffriamo e pensiamo che questa sofferenza sia per sempre? Bisognerebbe forse cambiare il nostro atteggiamento mentale. E pensiamo che cosa ci dice Nicoletta. Nicoletta ci riporta al buon senso in realtà, perché dice, considera che se sei di cattivo umore tutto ti sembrerà nero e non prenderlo troppo sul serio. Questo è un suo consiglio. Prendilo col beneficio dell'inventario e fai qualcosa per far alzare il tuo umore. A proposito, sai perché l'attività fisica per molte persone è un potente regolatore dell'umore? Perché quando siamo piccoli il nostro umore è regolato dalla padronanza motoria. Ecco perché da grandi fare sport è un buon modo per sorridere. Quindi, ovunque voi siate, che siate nelle vostre case, oppure che siate ristretti in una casa circondariale, oppure che siate in un parco, non perdete l'occasione di fare movimento in tutti gli spazi, in tutti i luoghi. E poi seguiteci, perché noi abbiamo anche una puntata domenicale di Yoga Ratna, condotta da Franco Bonisoli e Laura Russo, che possiamo sempre fare insieme. Ed è un movimento veramente rigenerante. E, prima di lasciarvi alla nostra canzone, vi ricordo che concluderemo l'intervista di Aurora Dall'Olio, operatrice per esecuzione penale interna di Cefal, e a questo punto lancio la canzone. Caterina, che ne pensi? Ascolteremo Daniele Silvestri, Qualcosa cambia. Non era possibile e che lo sforzo sarebbe stato inutile, e invece eccoci qui. Dicevano non è un terreno fertile, non c'è nessuno ormai che ha voglia di resistere, e invece guardaci. Pensavano che fossimo un'ipotesi, un breve guizzo e poi di nuovo pavidi, e forse un po' è così, ma è questo che ci ha reso imprevedibili, sentirci solidi restando liquidi. Infatti adesso prova a prenderci. Thank you. perché si può vedere persino in questa nebbia che a rimanere insieme magari poi stavolta qualcosa cambia, qualcosa cambia. Ricordati dei giorni più difficili, fanne tesoro e poi fanne coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno come è logico gli ostacoli, saranno altissimi, inamovibili. E invece questo è il bello, li andremo incontro e cresceremo scavalcandoli. Siamo a venerdì, siamo sempre con Aurora Dall'Oglio del CEFAL, la Scuola Centrale di Formazione. Abbiamo parlato questa settimana di opportunità di lavoro, perché è questo che fra le varie attività fa il CEFAL, e Aurora è una delle operatrici che si occupa di valutare, ecco, i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo delle persone. Aurora, abbiamo parlato di tirocini, ma io ti chiedo, proprio accennando anche alle reti territoriali che voi da 30 anni ormai intessete come CEFAL presso le aziende locali per inserire le persone nel percorso di lavoro, ma quali sono i vantaggi per le aziende che prendono persone in misura di esecuzione penale interna? Certo, guarda, in realtà direi che la parola chiave in questi casi è la famosa legge Smuraglia del 2000, nel senso che è una legge che ha introdotto tutta una serie di agevolazioni e sgravi fiscali per aziende che sia che assumano persone detenute o in esecuzione penale esterna, e sia che vogliano fare impresa all'interno del carcere, nel senso che sono previste delle vere e proprie convenzioni tra aziende e amministrazioni penitenziarie che vogliono appunto aprire una sorta di loro succursale all'interno del carcere, come ad esempio sto pensando all'interno della Dozzetter, la sartoria, l'associazione Siamo Qua con la sartoria gomito a gomito, con il RAE, gestito dalla cooperativa sociale T2, ad esempio, o con la lavanderia dei Quattro Castelli. Ecco, tutte queste aziende, attraverso la legge Smuraglia, possono fare attività all'interno del carcere. Ci sono dei problemi, delle difficoltà che si riscontrano durante un tirocinio o un'esperienza lavorativa? Sì, purtroppo sì, succede spesso, a volte... Le persone magari pensano, o noi stessi pensiamo di essere pronti per questo tipo di percorso all'esterno, e poi in realtà non è così, nel senso, magari sto pensando magari a persone con problemi di dipendenza, a volte possono reincappare in queste problematiche una volta fuori. A volte i problemi vengono dall'esterno, nel senso che durante tutto il periodo Covid ovviamente ci sono state aziende che non sono più state in grado di poter gestire, insomma, la presenza di persone detenute con tutto quello che stava succedendo. Quindi diciamo che i problemi possono arrivare sia dall'esterno che dall'interno, e sta appunto nel nostro ruolo, insomma, come CEFAL, cercare di appianare il più possibile le difficoltà che ci sono, facendo rete appunto, sia facendo collegamento più che altro sia con l'esterno, l'interno del carcere, e con l'esterno. Tu l'altro ieri raccontavi che accompagni fisicamente la persona a fare il colloquio presso l'azienda. E allora io ti chiedo se ti è mai capitato di dover sciogliere un pregiudizio da parte del datore di lavoro verso la persona ristretta. Dunque, di solito i pregiudizi vengono sciolti prima. Cioè, chi ha dei pregiudizi di solito non arriva neanche al colloquio di lavoro con il detenuto, ovviamente. diciamo che quello è chiaro, che una persona avulsa dal mondo del carcere purtroppo si fa un'idea totalmente sbagliata di chi è una persona detenuta. Quello che noi cerchiamo di fare è di rassicurare in un certo senso i datori di lavoro, spiegando appunto che non si tratta di un detenuto che viene lasciato lì e basta, ma è un detenuto che viene sì accompagnato all'esterno tramite un tirocinio informativo, ma che c'è un seguito da parte nostra e da parte dell'amministrazione penitenziaria appunto per non abbandonare né il detenuto né l'azienda al loro destino, ecco, c'è una mediazione continua. Certo, e un'altra curiosità è rispetto ai percorsi, ce ne saranno stati e ce ne sono ancora tanti magari in corso di inserimento lavorativo, se ci sono delle esperienze andate a buon fine che ci vuoi raccontare, perché insomma è bello così anche condividere. Certo, ci sono esperienze andate a buon fine, in particolare in collaborazione con alcune cooperative sociali o con alcune aziende vere e proprie. Insomma, sto pensando a un'azienda impegnata nel settore dell'edilizia che in passato ha intrapreso un percorso di tirocinio formativo per una persona detenuta molto formata dal punto di vista dell'edilizia, e in seguito a un tirocinio ha voluto poi prorogarlo e dopo il secondo tirocinio ha deciso appunto di procedere con un contratto di assunzione, per cui ci sono dei casi di successo ed è bello ricordarselo ogni tanto, quindi sì, assolutamente. Infatti vorrei incoraggiare, anzi, se ci sono delle aziende che possono essere interessate ad intraprendere questo tipo di percorso, anche solo vogliono chiedere informazioni, noi abbiamo un indirizzo mail che è presidiolavoro@cefal.it e insomma siamo assolutamente disponibili per raccontare un po' quello che facciamo. Anche perché io sono convinta, siccome tu vedi poi tutto il lato umano della persona, che il tirocinio e la possibilità di un inserimento lavorativo non è soltanto l'opportunità di un lavoro, ma è tanto altro. Ci vuoi dire che cos'è? Eh sì, proprio è un'opportunità di dare una svolta, no? Di riprendere in mano la propria vita e cambiarne le sorti, ridiventare un po' padroni di quello che succede. E io vedo nelle persone che riescono a fare questa cosa proprio un senso di forza, diciamo, che è proprio bello vedersi restituire, anzi di gratitudine estrema ovviamente nei confronti delle aziende che sono disponibili a facilitare questo percorso. Quindi sì, non si tratta semplicemente di un reinserimento lavorativo, ma è proprio una ripresa in mano delle proprie vite. Grazie Aurora, è stato bello parlare con te, averti qui e un'ultima canzone, sempre tua. Grazie. Grazie mille, io continuo con la tendenza del cambiare la lingua delle canzoni, in questo caso andiamo in Venezuela con Canserbero, che era un rapper morto molto giovane, che ha scritto un testo hip hop bellissimo che si chiama Canzone della Prison, che è proprio banalissimo testo di denuncia, no, non banalissimo, però è proprio un testo di denuncia della condizione delle carceri, in questo caso in Venezuela. Per cui eccovi Canzone della Prison di Canserbero. Ti ringrazio tantissimo, ascoltiamoci questo bellissimo pezzo e ci rivediamo tra pochissimo per i saluti di finali di fine puntata. Ciao Aurora, ciao, grazie. ciao. 26 de junio, hoy ya se cumplen 12 meses del día que fallece el único hijo del señor Julio. Con solo un disparo murió el niño de 11 por negarse al robo de un matón que todos conocen. Desde entonces todas las denuncias son ignoradas. Nadie ha visto nada, nadie sabe nada, nadie aquí hace nada. Y bajo la almohada de Julio te la factura, la recarga y jura que esta noche la deuda será cobrada. Mientras andaba recarga la caserina, como se esperaba, ve al hijo de puta después de cuatro esquinas. Camina lento las cuatro, frente al se para y apenas le ve la cara a Julio, Julio en la cara. 26 de junio, hoy ya se cumplen 12 meses del día que fallece el asesino del hijo de un hombre que estará encerrado esperando sentencia hasta que una chequera pueda comprobar su inocencia. Díganme cómo se perdona un hijo de puta que te mata un ser querido sin causa, inducido por un vicio. Este himno es dedicado a seres humanos encerrados y asesinados antes de un juicio. And here's a song to sing for every man inside. If he can hear you sing, it's an open door. There's not a rich man there who couldn't pay his way and buy the freedom that's a high price for the poor. Díganme ustedes cómo sé. Se perdona mi hijo de puta que te mató un ser querido y en su cráneo una bala le incrusta. Si la violencia se lo genera más violencia, es obvio que las injusticias también... E rieccovi di nuovo, siamo sempre giunti a saluti di fine puntata. Oggi che è venerdì, lo sapete cosa segue nella mezz'ora successiva. Abbiamo Islam, religione e civiltà e parleremo di abluzioni e di cura della persona. E poi a seguire c'è il CEC, la comunità educante con i carcerati, che ci presenta il servizio civile al CEC in Camerun. Domani, che è sabato, abbiamo la rubrica cura del capitano del carcere Marcello Mattei, le parole della parola. Segue Parliamo di buddismo, in cui Fabio Fassone affronta l'emozione della tristezza. A seguire un'altra rubrica nuova a cura di Ignazio De Francesco, che si chiama 50 post per dialogare, e dove tratteremo il valore dell'amicizia. E poi la rubrica Libri dentro, in cui Antonella Cortese intervista il rapper Kento, che presenta il suo libro Barre. La domenica siamo sempre con voi, sempre con le nostre rubriche, a cominciare da Yoga Ratna a cura di Franco Bonisoli e Laura Russo. E a seguire c'è il FOMAL, la rubrica Chef al fornelletto, in cui lo chef Francesco Marcone presenta i tortelli di patate. Grazie a tutti, scriveteci, redazione liberidentro, @gmail.com, e noi vi salutiamo tutti quanti, da Paolo, Caterina, che sono io, Antonella Cortese, Nea Flacco, Diana Bota, Ignazio, e ci rivediamo lunedì. Ciao a tutti. Liberi dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.